Fare le registrazioni. Ascolta, io sono andata a Piazzetta da Luisa, e erano in un gruppo, si parlavano, si vede che erano fare qualcosa, sì, si vede che c'erano fare qualcosa a scuola. Veramente fa questa che ci reggiva.